Cari amici, il personaggio che intervistiamo oggi non ha certo bisogno di ulteriori presentazioni. Rosario Bonaccorso. Cari tutti, caro Gerlando, è per me un grande piacere essere qui a casa tua e soprattutto per questo incontro dove si parlerà di musica. Bene, parliamo immediatamente di musica. Ieri sera c'è stato un concerto alla Casa del Jazz dove tu hai presentato il tuo ultimo lavoro discografico. Vuoi parlarci un po' della serata e poi incentriamo il discorso sul disco? La serata è andata benissimo innanzitutto, l'abbiamo organizzato con Gian Domenico Ciaramella di Giando Music e Matteo Pagano di Via Veneto Jazz. È stato veramente un bel successo a livello di numeri e soprattutto a livello di persone. La musica ha funzionato magnificamente, sono molto felice. Il quartetto presentava una variazione rispetto al progetto del disco. Nel disco si presenta Fabrizio Bosso, Javier Girotto e Taufik, oltre a me chiaramente, e ieri sera al posto di Fabrizio, che era impegnato per altre situazioni, ho chiamato un artista che a me è molto caro, sia perché è grandiosamente bravo, ma anche perché siculo pure lui, adesso non è che voglio fare una lega dei siculi nel mondo, però ce ne sono già tante in giro, però sicuramente questo rapporto, poi lo conosco da quando, ne parlavamo proprio stamattina a colazione, lo conosco da quando facevo i concerti con Capiozzo in Sicilia e siamo passati proprio dal suo club che gestiva il papà e io ero lì con Capiozzo e con Jimmy Owens e lui avrà avuto una decina d'anni. E quindi insomma l'ho visto, non dico crescere, ma ho apprezzato le sue tappe creative e adesso è un musicista che è perfetto per lo stile di musica che sto portando avanti, specialmente in questo progetto. E si tratta di? Dino Rubino. Bene, passiamo al disco Viaggiando. Questo è il titolo dell'album che quando hai fatto tu il disco precedente? Allora, il mio disco precedente è uscito per l'Auditorium, è del 2011, più un passaggio che ho passato alcune composizioni mie per una pubblicazione di musica jazz, però diciamo io sto lavorando molto su questo progetto perché questo è il mio diciamo consacramento, questa ultima produzione e tutte le composizioni fanno parte di questo disco Viaggiando, quindi da quando ho compiuto i 50 anni ho deciso di lavorare su me stesso per il mio materiale che avevo acquisito negli anni e cominciare una carriera, fra virgolette, se carriera si può dire a 50 anni, portare avanti la mia musica come leader e compositore, questa è la terza pubblicazione. La prima era Travel Notes, la seconda In Cammino e questa Viaggiando. Una vera trilogia come maestri, diciamo, cineasti francesi, una trilogia che riguarda il viaggio dentro e fuori da noi stessi. Qual è la differenza di quest'album rispetto ai precedenti? Sicuramente è una differenza dal punto di vista stilistico, compositivo, ma soprattutto di realizzazione musicale, perché mentre per gli altri due quartetti, gli altri due dischi che ho fatto col quartetto Travel Notes, con un organico standard, dove era presente il magistrale piano di Andrea Pozza, il dinamico Nicola Angelucci e poi Andy Gravish e Fabrizio Bosso, quindi un quartetto classico, in questo ho voluto rivoluzionare completamente il suono. Innanzitutto non c'è batteria, c'è una meravigliosa chitarra di Roberto Taufik, che da alcuni anni collabora con me su alcuni progetti dal vivo e anche altre registrazioni, e poi il suono è completamente diverso, perché è un ensemble che quasi richiama al cameristico, con un grande apporto di saudade brasiliana, con gli interventi molto passionali dell'argentino Javier Girotto, e poi nella registrazione c'è questo virtuosismo e questa eleganza del suono di Fabrizio che ci riporta un po' all'Europa, e il tutto condito dalla mia, diciamo, modo di gestire la musica, sia nella registrazione che dal vivo, quindi con gli interventi solistici, con veri e propri background di insieme, ma soprattutto quello che ho ricercato, che è un lavoro che sto facendo ormai dai miei tre dischi, è questa forma canzone. Cioè sto lavorando su questa forma canzone che fa i brani un pochino più brevi rispetto alla normalità, non dico misurati i soli, però sicuramente un po' più contenuto, un po' come all'antica quando si cercava di dare il meglio in questo spazio e concentrare al massimo le nostre energie mentali e creative per avere un prodotto molto particolare, che diciamo più a parole bisognerebbe ascoltare il disco. Io l'ho ascoltato e devo dire che è un bel disco, si sente con grande godimento dalla prima nota sino all'ultima. Da cosa hai tratto ispirazione per questo tipo di lavoro? Allora, mi sono basato su due concetti fondamentali. Uno, il riportare a galla alcune partiture che avevo scritto. Io non scrivo a tavolino, scrivo probabilmente cantando, poi mi segno le note, mi faccio degli appunti di viaggio, appunto, e, oppure mi registro, adesso con la nuova tecnologia, mi registro sul telefonino dall'altra parte. Sono melodie che vengono spontanee nel momento in cui io entro in contatto con qualcosa che mi stimola. Per esempio, alcune di queste, nel disco, te ne posso raccontare alcune, sono particolari. Allora, un esempio, Domin, che è una che mi piace raccontare. Domin è il titolo dedicato a una scrittrice austriaca, tedesca, che si chiamava Hilde Lovensberger, e lei è una ebrea scappata dall'Europa poco prima di quello che Hitler, sappiamo, ha fatto, e ha vagato insieme a altre migliaia di suoi concittadini su una nave, pensa, per tutto il Mar Mediterraneo e per l'Oceano Atlantico, senza mai essere accettata per via del carico che trasportava. Insomma, infatti pensavano anche di essere, ho letto la sua biografia, pensavano anche di essere silurati a un certo punto, finché arrivano nelle isole dominicane e lì sbarcano e pensa, e lì c'era un altro dittatore a quei tempi, parliamo del 38. Insomma, risultato, da un dittatore passano a un altro che però, a differenza di quello che era in Europa, non li vuole sterminare, anzi ne trae un profitto economico. Insomma, per farvela breve, questa scrittrice meravigliosa ha scritto delle poesie stupende, io le ho lette e dopo un attimo avevo immaginato, dal dramma di questa storia è uscita fuori una melodia completamente opposta, quasi un'alternanza di ritmi e di colori, di un'allegria, però con una certa saudade, un po' il modo che scrivo io, che era completamente in contrapposizione con quello che avevo letto. E questo è uno dei brani, ma ce ne sono tanti altri. Per esempio, Mr. Kneipp è dedicato a un monaco che si chiama Sebastian Kneipp, che alla fine del 1800 ha scoperto il nuovo sistema della medicina tradizionale europea, in contrapposizione con quella cinese. Lui, attraverso prove empiriche su se stesso, ha trovato un modo per guarire tante malattie, anche di tipo psicoterapeuta. Era uno psicoterapeuta applicato pure con la medicina fisica. Lui, attraverso la conoscenza del corpo, quindi i meridiani e tutto quello che riguarda il nostro sistema nervoso, curava bagnando, cioè lavando queste persone con l'acqua calda e l'acqua fredda. E io stesso ho presentato questi corsi, devo dire, con un grandissimo beneficio. E mi sono immaginato di prendere questo monaco benedettino, in quei tempi, e portarlo dove? A Rio de Janeiro. In una pazzia di questi sogni che noi facciamo ogni tanto. E il risultato è una melodia molto cantabile, quasi curativa, con cui io concludo i miei concerti, come ieri sera. È stato bellissimo vedere 160 persone che cantavano la melodia ed andavano via felici dal concerto. Io penso che con la musica, come Mr. Kneipp ha fatto con l'acqua calda e l'acqua fredda, con la musica si possono curare tante cose nella vita. Ecco, ascoltando l'album si nota questa tua predilezione per la bella linea melodica. Non hai paura che così facendo ti attiri le critiche di quanto considerano il jazz, specialmente oggi, quasi esclusivamente come musica di ricerca e quindi come sperimentazione? No. Me ne frega assolutamente niente, anche perché questo è un mio momento creativo. Ho fatto anche negli altri dischi, cioè ho fatto un lavoro di ricerca, abbiamo approfondito, nessuno toglie a me stesso e ai miei musicisti di ricercare. Secondo me, come diceva Leonardo da Vinci, non lo dico io, la semplicità è il massimo della raffinatezza. Cioè riuscire a scrivere una melodia che piace, che conquista prima di tutto me stesso, e poi avere degli artisti così bravi al fianco che prendono questa melodia e la utilizzano come materia prima su cui elaborare la propria espressione, per me è il massimo. Il fatto di fare un assolo melodico è un punto di arrivo, secondo me, non è un punto di partenza. Cioè un punto di arrivo è riuscire a fare quello che fa Ornette Coleman, per esempio, che nel grande caos ogni tanto viene fuori con una melodia e tu caschi per terra dalla bellezza. Questo, secondo me. Io penso che il lavoro di ricerca di... Io non faccio un lavoro di ricerca, io lavoro sulla spontaneità, nel senso che se mi viene una bella melodia, una melodia che mi piace, io la utilizzo. Una melodia che non mi piace, non la utilizzo. Perché devo scrivere a tavolino delle cose soltanto per ricercarle? Ho lavorato con tantissimi gruppi, con tantissimi musicisti. Ho lavorato con Enrico Rava, con Di Battista, ma con Pat Metheny, con Elvin Jones. Cioè io Elvin Jones, quando abbiamo registrato insieme tanti anni fa nel disco di Battista, era il 2000, gli ho fatto sentire il mio pezzo, che è Song for Flavia, che fra l'altro ho registrato anche nel mio disco. Lui mi ha detto, ah, this is what I like. Qualcosa che, nel senso che c'è una melodia a cui si può ispirare per ricominciare a improvvisare. Se non c'è una melodia a cui ispirarsi, su che cosa improvviso? Oppure facciamo un lavoro completamente diverso. Ma non è questo il motivo per cui ho inciso questo disco. Per me è un po' come se raccontavo ieri sera ai miei amici che sono venuti. Quando ho pensato a queste 14 tracce del disco, ho pensato come quando cammini sulla spiaggia, poi ti giri indietro e vedi le tue impronte. In una di quelle impronte ho visto un'immagine di questo disco. Cioè, sono cose che mi appartengono, perché negarle? Perché distruggerle? E anzi, con quelle impronte io vado avanti e ne sto facendo delle altre. E in quelle impronte io metterò una parte di me stesso. Lao Tse diceva, un viaggio comincia dal primo passo. Senza questo passo non possiamo cominciare nessun viaggio. In questo passo adesso c'è questa melodia, c'è la ricerca di una cantabilità che secondo me è un punto di arrivo, appunto dicevo, e non è una cosa di cui vergognarsi, e soprattutto adesso, magari fra un anno ci risentiremo o cambierò completamente. Questo è il mio momento creativo e me lo voglio godere tutto al 100%. Poi vedo il piacere del pubblico, non è che io suono per il pubblico, e allora mi voglio attirare con le canzoncine, diciamo, il piacere e il plauso del pubblico, tutt'altro. Cioè, dentro una qualcosa di semplice deve essere una grande profondità. Non confondiamo semplicità con banalità, e questa è una cosa molto importante che ci tengo a dire. Cioè, i musicisti che suonano con me, prima di prendere il materiale, a parte la difficoltà nell'esecuzione, perché sono tutti brani che hanno una certa difficoltà anche dal tipo esecutivo, sono provocati da questa cosa, e quindi è un esercizio molto importante riuscire a stare in un tema cercando di dare un'espressività molto forte, piena di contenuti e piena soprattutto di onestà interpretativa. Non puoi immaginare quanto io sia d'accordo con queste tue affermazioni. Un'altra cosa, tu in questo album ti presenti nella triplice veste di compositore, contrabbassista e cantante. Quale delle tre ti è più congeniale, e soprattutto come mai hai scelto di cantare questa volta? Allora, innanzitutto nessuna delle tre è congeniale, nel senso che tutte e tre fanno parte di me, quindi non potrei dividere una dall'altra. Tu, Gennaro, mi conosci da tanti anni, io ho sempre cantato, nel senso che il mio modus di interpretare la musica viene da dentro, come tutti del resto, ma siccome da ragazzino cantavo, mi è rimasto questo viziaccio. E quindi io suono quello che canto, in un certo senso. Se devo fare una linea, me la sto già cantando, non è che la faccio perché so che nell'accordo di Do ci vanno quelle quattro note. Io parto da una nota e me le canto e me le suono, come si dice, canto e me le suono. Il fatto di cantare questa volta ha preso una dinamica molto più forte, perché un po' per l'età dico, che faccio, aspetta, tanto al festival arrivo o non ci vado. Non divento un entertainer, diciamo, di quelli forti. Sono anni che ascolto Shirley Horn, che per me, guarda, soltanto a dire il nome mi stanno tutti i peli, mi si drizzano. E quindi per me il cantare, a parte che è stata una delle cose più importanti della vita, no? Secondo me chiunque canta, proprio nei momenti di disperazione la gente canta, e anche nei momenti di felicità, per cui è un fil rouge che ci accompagna per tutta la vita. E questa voglia di cantare, ecco, la cosa che mi ha colpito è che sono andato da Gian Domenico e gli ho detto, senti, io però voglio mettere un pezzo cantato. E lui mi ha detto, ah, magari, mi dice Giando. Per cui non mi sono fatto scrupoli. E forse avrei voluto cantare già dal primo disco, diciamo, a nome mio, ma ho aspettato di presentarmi come leader dopo qualche anno. Adesso penso che i tempi siano maturi. Oggi parlavo appunto con i miei colleghi, e nel prossimo disco sicuramente ci saranno altri brani, perché già dal vivo canto altri brani che però non ho registrato. È un bel, non dico esperimento, ma soprattutto una scommessa, perché io ho adorato e continuo ad adorare i grandi cantanti della tradizione brasiliana, ma quelli, diciamo, degli anni 60-70, da João Gilberto a Caetano Veloso, Gilberto Gil, a Odelobu e tanti altri, in più tanti cantanti della tradizione cantatorale italiana, europea. Mi piacciono le chansonnier francesi, ma mi piacciono anche tanti cantanti, per esempio io adoro Sergio Endrigo per la sua poeticità, Bruno Lauzi e tanti altri che, insomma, hanno tracciato un po' le linee guida del cantatorato italiano. Ma a parte il riferimento, io non sono un cantante, questo si sa, però mi piace esprimermi attraverso la mia sensibilità, o è un'espressione, è un suono. Ne parlavo con Gigi Telesforo l'altro giorno, lui mi diceva, ho sentito il tuo disco e la cosa che mi ha colpito è, adesso sembra che me la canto addosso, però ha detto una cosa giusta, cioè tu canti non da cantante, canti da uno, da musicista che si esprime. E questo infatti è un, quando tu hai detto quale delle tre, non so dividerle, il contrabbassista, beh, il compositore fa parte, ma il cantante e il bassista si accompagnano tutta la vita, e penso che se non mi succede qualche cosa continuerò a cantare, forse di più di quando smetterò di suonare, forse prima di cantare. Bene, a questo punto allarghiamo un attimo il discorso. Tu sei oramai un musicista affermato. Dalla tua posizione, come valuti l'attuale situazione del jazz italiano, specialmente per quanto concerne il cosiddetto mercato? È una domanda a cui è difficile rispondere, perché come tutti i momenti, la crisi che abbiamo in questi ultimi anni chiaramente sta abbracciando il mondo dell'arte, di cui il jazz fa parte, fa anche rima, però è un dramma questa rima, perché io personalmente sono anche direttore di un festival jazz che negli ultimi 20 anni ha avuto un discreto successo, anzi un bel successo, e negli ultimi anni stanno succedendo delle cose terribili, per esempio il patto di stabilità, non mi nego a dire che per l'arte è una catastrofe, paesi che prima si alimentavano e alimentavano il loro fringe turistico attraverso l'organizzazione di spettacoli e di richiamo sono stati obbligati a tagliare. Io personalmente ho abbassato moltissimo il numero dei concerti, non qualitativamente chiaramente, ma il numero dei concerti si è abbassato, ma non soltanto io, tutti i miei colleghi, il che vuol dire che c'è una crisi generale. La cosa importante è che crisi, che significa cambiamento, non dimentichiamocelo, sta facendo cambiare un pochino anche le idee di tanti musicisti, che stanno nascendo delle nuove associazioni, stanno nascendo delle possibilità di cooperare, forse uno scambio un pochino più importante tra noi, ci sono meno separazioni, la crisi unisce anche. Io trovo che sia un periodo molto difficile, io per fortuna 35 anni di carriera l'ho fatta, ho avuto anche le mie belle esperienze, ma un giovane che si affaccia sul mercato adesso è costretto ad andare a barattare la propria opera per pochi soldi, purtroppo bisogna dirlo, stanno purtroppo verificando dei drammi di concorrenza sleale anche fra parte di giovani. Ci sono dei locali, e lo ripeto, che di questa crisi ne hanno fatto beneficio e ne approfittano, organizzatori che sottopagano dando colpa alla crisi e poi invece le loro economie sono rimaste tali. C'è un piccolo abbruttimento per quanto mi riguarda, che ripeto non riguarda la qualità, riguarda la gestione del nostro lavoro. Io faccio soltanto il musicista, io non insegno, vivo facendo concerti. E quindi per me la crisi è stata abbastanza forte, ma ti ripeto, nella crisi io ho trovato un modus di reagire che è quello, diciamo, di lavorare su me stesso, cosa che insomma è molto importante per ognuno di noi, e creare delle alternative dal punto di vista dell'organizzazione, della produzione delle nostre, a livello compositivo, e anche di nuove idee organizzative. Però non è un gran periodo per me, non per me, secondo me non è un gran periodo. Trovo che andremo incontro a un cambiamento molto forte. E guarda nelle città, non ci sono più club. Milano è un disastro. Roma, a meno che mi risulti, io non sono di Roma, però ho visto la tua faccia adesso, hai fatto una faccetta indicativa, esattamente la mia, la stessa mia faccia, ma in tutte le città si stanno verificando dei grossi problemi, posti che prima non facevano musica ci provano, poi finiscono, festival che facevano 6 giorni di programmazione ne fanno 3, si abbassa il numero dei concerti. Gli organizzatori hanno paura che la gente non venga, quindi si creano sempre più compromessi di tipo, questa musica jazz che ha un valore enorme, che dobbiamo continuare a mantenere dal punto di vista culturale, si sta, fra virgolette, non voglio dire questo verbo, ma lo dico, inquinando con situazioni di cassetta che permettono agli organizzatori di andare avanti, però molte volte si abusa di questa cosa, per cui ci si ritrova dei festival importanti che hanno dei bei budget con su 40 gruppi ce ne sono 30 che fanno pop e 10 che fanno un lavoro di ricerca. Questa non è una bella cosa. Io trovo che non sia una bella cosa. Sono pronto a parlare di questo problema a livello globale. Senti, tu poco fa facevi riferimento al tuo festival. Vogliamo dire dove si svolge e quando si svolge? Sì, il mio festival è nato nel 96, quest'anno compie 20 edizioni, è dedicato alla figura di mio fratello Naco, grande percussionista scomparso purtroppo nel 1996, si chiama Perc Fest, che è l'acronimo di Percussion Festival, è dedicato appunto in gran misura allo sviluppo e alla produzione, alla promozione degli strumenti a percussione, infatti ci sono 100 appuntamenti didattici gratuiti dedicati alle percussioni, gestiti da grandi didatti e grandi musicisti, insegnanti, ma soprattutto artisti, tipo Christian Meyer, tipo Ella De Bandini, Roberto Gatto, Billy Coban, Jimmy Coban, posso fare, che ogni anno partecipano a turno, diciamo negli anni si sono intercalati tutti, e offrono lezioni gratuite a tutti, musicisti, curiosi, appassionati, professionisti, amatori. ci sono 16 concerti di jazz. Quest'anno, purtroppo per colpa della crisi, invece che 6 giorni faremo solo 4 giorni, e si svolgerà a Laigueglia, provincia di Savona, sulla riviera Ligure, una perla, ve lo dico, è un posto magnifico, dal 18 al 21 di giugno. Bene, un altro problema, sempre riferendosi alla crisi. Io ho l'impressione che in questo periodo in Italia si stia verificando un paradosso, nel senso che da un canto le occasioni di lavoro diminuiscono, dall'altro invece crescono a dismisura i musicisti bravi. Come se ne esce? Non se ne esce, amico mio. Non se ne esce perché da quando le scuole sono diventate più importanti dei jazz club e dei posti dove è nato il jazz, come fa a uscire? Ci sono 200.000 scuole, ci sono ogni anno grandissimi professori, grandissimi insegnanti, artisti che, proprio perché c'è sempre meno lavoro, vanno a finire che insegnano. Questo lo dico proprio senza peli sulla lingua, come si dice. Abbiamo una qualità di musicisti giovani eccellente, sicuramente a livello europeo, adesso non voglio fare statistiche, ma abbiamo una qualità di giovani artisti veramente da numero uno. E poi dove vanno a suonare? Ma dove vanno a suonare? Ti ritrovi che ci sono dei ragazzi, dei gruppi che si meriterebbero di apparire in scene molto importanti, e li trovi a suonare in un posto che non è un jazz club, attenzione. Io mi ricordo quando ne parlavo stamattina, a 18 anni, col mio contrabbasso, montato sulla spondina, sul portavalige del treni, ancora i treni quelli, quasi la terza classe c'era, vabbè, parliamo degli anni del 74-75, andavo a Milano, andavo a Firenze, in club, dove veramente si faceva jazz dalla sera alle 9 fino alle 4 del mattino. Quella era stata la mia scuola, ma non solo la mia, la scuola di Massimo Urbani, la scuola di Roberto Gatto, tutta la mia generazione ha vissuto quella scuola, non ce n'erano scuole di jazz. Io, prima di vedere un contrabbassista, me ne sono dovuto andare a Genova, a Milano, da Imperia, vabbè, abitavo a Imperia, però per dire, vedo la situazione com'è adesso, abbiamo tutta la tecnologia possibile e inimmaginabile, i ragazzi che vengono da me mi chiedono consigli, mi dicono cosa ne dici di YouTube, no, ti dico YouTube, spegnilo, è bello una volta ogni tanto, ti vedi un filmato degli anni 40, ma prendi, vai, spendi 5 euro per una birra, alimenti il mercato del jazz club, ascolti dei musicisti che suonano, cosa succede? Ieri sera sono contento di aver avuto l'auditorium pieno, ma a volte mi capita di andare in città un day off, faccio un giro in un club, non ci sono i ragazzi, la gente che va a sentire i concerti dai 40 anni in su, e i ragazzi dove stanno? E lo chiedo, dove siete ragazzi? Andate in giro a suonare. Io ho fatto una masterclass, ne faccio 2 all'anno, a Merano l'anno scorso. Avevo dei giovani bassisti, anche molto bravi, che non andavano a sentire i concerti. Ma dove andate? Cioè, c'era Peter Eskin a quanto il concerto? Loro se non stati con la fidanzata in un'altra parte. Beh, piglia la fidanzata e va a sentire Peter Eskin. Cioè, se quella deve diventare la tua vita. Questo è il dramma. E purtroppo, legato al fatto che tu dicevi delle scuole eccetera, c'è una grandissima tecnologia che permette ai ragazzi di stare davanti a un bel, questo quant'è, 50 pollici, e pensano di essere al concerto di jazz. E cosa impari? Tu devi vedere il sudore del musicista, devi sentire come respira, devi vederlo mentre crea, devi vederlo mentre schiaccia l'occhio al sassofonista che ha fatto 8 chorus di più. Queste sono le cose importanti per diventare musicisti, e non studiare tecnicamente, però non è che guardando YouTube o vedendo dei video uno diventa bravo. Devi passare, devi andare in trincea, e la trincea è andare al jazz club, e se il jazz club non funziona, neanche è colpa del pubblico che non ci va più. Quindi bisogna uscire la sera e andare a sentire la musica. Sì, questa è una grande verità, purtroppo. Quando tu hai cominciato a suonare, avevi come contrabbassista un preciso punto di riferimento, un faro che ha guidato il tuo stile, il tuo modo di suonare, o che in qualche modo ti ha indirizzato? Beh, sono tanti fari. Se diciamo avessi seguito tutti quanti, ti sarei andato tipo a schiettino sulle rocce. No, per fortuna, sono stato molto fortunato, perché mi ricordo il basso elettrico che suonavo dai 17 ai 20 anni, poi ho fatto il militare, e in marina, fra l'altro, lunghissimo. E in quel frangente mi sono trovato a casa di un amico carissimo di Torino, dove su un sofà, seduto più o meno come adesso, ho ascoltato per la prima volta Miles Davis, che non sapevo chi fosse. Io venivo dai Led Zeppelin, come tanti musicisti della mia generazione. Ho sentito sto contrabbasso, cos'è sta roba? Era Ron Carter, in quel famoso duetto che fanno in My Funny Valentine, insieme a Herbie Hancock. e mi sono innamorato immediatamente. È stato un amore pazzesco. Quindi per me il suono di riferimento di quegli anni è stato Ron Carter. Poi chiaramente, come in gioventù, mi sono avvicinato per esempio a Eddie Gomez, il re proprio inavvicinabile, no? Perché la tecnica sua, Scott LaFaro, però era talmente lontano dalle mie capacità che poi invece cosa ho fatto? Mi sono rivolto, per fortuna mia, dico per fortuna mia, sennò mi sarei andato in depressione, suonavo da pochi mesi, no? Mi sono rivolto ai bassisti della tradizione e ho scoperto la magia della tradizione e quindi mi sono avvicinato, pensate, a Pop Foster, a Slam Stewart, a Major Hollery, a Ray Brown, a tutta quella banda, quella schiera, Tommy Potter, di bassisti che a quei tempi erano funzionali per la musica e di cui, devo dire la verità, mi sento impregnato ancora adesso, che hanno fatto sì che poi io cominciassi a vivere facendo il musicista, fra l'altro ai primi anni di jazz tradizionale, fra l'altro conoscendo tantissimi artisti italiani e americani di grandissimo livello. Mi ricordo ancora adesso che ero giovane, ho suonato una sera con Ralph Sutton, che pochi conoscono, è una cosa meravigliosa, è stato uno dei più grandi pianisti di straight piano, conosceva tutto, io ero lì attaccato alla sua mano sinistra col basso a guardare quello che faceva lui, perché non ci capivo assolutamente niente, ma suonavo da pochi mesi. Ed è stata un'esperienza per me meravigliosa. Da lì poi mi sono riavvicinato e ho scoperto un'altra meraviglia, Mingus. Il Mingus l'ho scoperto dopo. E lì è cominciato tutto un trip pazzesco. Poi sono andato avanti, mi sono andato ad ascoltare tutto e poi negli anni chiaramente comincio a capire le differenze tra Paul Chambers e Percy Heath, cose che magari uno non ci pensa neanche. Oppure tra Scott LaFaro e Charlie Haden, no? Tra tutte cose di suoni e i dischi, ho cominciato ad avere, piano piano mi sono creato una direzione. Uno di loro che mi ha dato più emozioni è stato sicuramente la ritmica dei tempi appunto di Miles del 60, prima che Miles passasse al rock, quando poi c'era nel periodo di passaggio tra George Coleman e Wayne Short, quegli anni lì però sono stati molto creativi, ho capito una dimensione della ritmica in evoluzione in quel mondo pazzesco, mentre in Europa si cominciava a sentire la musica, anche in America i Rolling Stones cominciavano, ma c'era uno come Miles che suonava questa musica da atterraggio lunare, secondo me. E con mio fratello, che era più giovane di me, era molto creativo, cominciavamo a suonare in quel modo, cioè la dimensione ritmica che in contemporanea, insieme al pianoforte, diventa uno stimolo, non è un puro, diciamo, tappeto su cui il solista improvvisa, ma diventa parte creativa. E questa cosa mi ha molto influenzato anche per il futuro. Infatti nei miei dischi, quelli che ho fatto come leader, ma anche prima nelle esperienze precedenti, grazie al fatto che ho suonato tanti anni con Rava o con... appunto con altri grandi artisti italiani, con Gatto, nelle band, nella loro band, insomma ho lavorato molto su questo materiale, su quanto il basso possa essere fondamentale per lo sviluppo, la dinamica e soprattutto la direzione che prende la musica in ogni istante. E infatti nei miei gruppi faccio in modo e cerco di dirigere questa musica. Per me è importante che, siccome il contrabbasso, si sa, non è che lo dobbiamo dire adesso, non è uno strumento di prima linea, è uno strumento che sta dietro, quindi guidare da dietro è sempre più problematico. Come direbbe Aldo Romano, che è un carissimo amico e voglio dire è un grande leader di gruppi, è molto difficile guidare quando hai davanti un muro di culi, no? Nel senso che stai dietro, hai davanti sax e tromba, diventa difficile, per non parlare poi di gruppi più grossi. Per cui deve essere la guida, quando sei uno strumentista come il batterista o come il bassista, diventa molto più difficile, è molto soddisfacente, devo dire, quando hai dei musicisti sensibili che assecondano le tue direzioni, e mi piace guidare la musica sul momento. Questo dipende proprio dalla grande esperienza che ho fatto lavorando tantissimo sulla musica di quegli anni, che io quando sentivo Tony Williams e Ron Carter che riuscivano da un tempo con cui si partiva a cambiarne altri 10 e a cui gli altri si appoggiavano, non era il contrario, è ancora di stimolo adesso. Certo. Mi fa piacere quanto dici, perché quando io ti ho sempre ascoltato nei dischi, anche nei concerti eccetera, mi ha fatto sempre venire in mente, non so per quale motivo, ma adesso tu me lo confermi, il nome di Slam Stewart. È un'affinità che evidentemente c'è e si percepisce. Il tempo passa, ne è già trascorso abbastanza per i nostri podcast, per cui ti faccio l'ultima domanda. Cosa ti aspetti nel futuro prossimo e un po' più lontano? Allora, nel futuro prossimo, secondo me, quello che vorrei adesso è registrare con i prossimi progetti. C'ho due progetti in ballo, a parte questo che stiamo lavorando sicuramente per una prossima realizzazione di Viaggiando la Vendetta, il prossimo. Ho due gruppi a cui tengo molto. Uno è il Travel Notes, quello degli altri due dischi, e poi questo Follow the Ghost, che è un gruppo nuovo che ho creato qualche mese fa, e avremo il battesimo fra qualche settimana con Rita Marco Tulli e Bebo Ferra, e questo sarà un progetto completamente creativo, mi piace questa sponda. E l'altro invece, dove c'è Dino dentro, è un progetto con Dino De Ceccarelli e Enrico Zanisi, è un nuovo progetto, si chiama Romantically Yours Quartet, e lì mi lascerò andare alla mia vena romantica, melodica. Abbiamo già suonato alcuni concerti e funziona benissimo, quindi sono molto contento. E poi ho tutta una serie di piccoli progetti in duo, in trio, di cui magari ne parlerò col prossimo podcast, ma questi due ci tengo particolarmente a avere il materiale per la registrazione. Il materiale c'è già, andare in studio, ora dovevo parlare un attimino con qualche produttore perché vorrei fare un bel lavoro. Questo è il progetto, secondo me i prossimi 2-3 anni saranno con questi progetti. Bene, in bocca al lupo, grazie per la bella chiacchierata e invitiamo tutti a venire ad ascoltarti nelle varie città in cui ti esibirai. Grazie, chi mi vuole seguire c'è il mio website che è www.rosariobonacorso.com, ci sono tutte le date e con tutti i vari differenti gruppi. Grazie e spero di vedervi ai concerti. Ciao. Grazie per aver ascoltato A Proposito di Jazz. Potete ritrovarci online sul sito www.online-jazz.net, sulla pagina Facebook facebook.com/onlinejazz e sul profilo Twitter @onlinejazz. Buon jazz a tutti!